Riflessi d'Oltretevere. Buona giornata e buona Pasqua a tutti da Katia Caramelli. Il 2 aprile di 5 anni fa moriva Carol Wojtyła. Dal giorno dei suoi funerali non si è più arrestata la folla che quotidianamente gli rende omaggio nelle grotte vaticane. Elisabetta Lo Iacono ha analizzato i tanti messaggi lasciati sulla tomba del Papa polacco e nel volume Caro Signor Papa racconta i risultati della sua indagine. Moltissime lettere sono anche di persone non credenti, che non hanno fede o che hanno perso la fede e che comunque vedono in Giovanni Paolo II un punto di riferimento utile a riconquistare quella fede, quindi quella speranza, oppure comunque a trovare una risposta ai tanti perché della vita, del quotidiano. I messaggi che ti hanno colpito di più? Sono molto toccanti quelli da cui si percepisce in maniera forte, evidente, una grande angoscia per situazioni ad esempio di malattia, quindi ci sono questi appelli veramente disperati che già si percepisce lo stato d'animo dalle lettere, dalle buste addirittura, dove si cerca quasi di richiamare l'attenzione del Papa, quindi aiutami, serve un tuo miracolo, e poi leggendo in effetti si legge di situazioni molto critiche. Poi quello che mi ha colpito veramente è in generale questo approccio molto familiare e soprattutto questa grande disinvoltura con cui si affrontano anche tematiche molto personali, addirittura anche sul piano intimo con Giovanni Paolo II. Molte lettere vanno anche un po' contro quelli che sono insomma gli insegnamenti della Chiesa e anche le posizioni nette che ha sempre assunto Giovanni Paolo II. Nella grande incertezza del vivere, credo che quelle lettere siano un po' lo specchio della società, quindi di un uomo che si trova tra tante difficoltà dal punto di vista economico, familiare, mancanza di punti di riferimento, e forse cerca proprio in Giovanni Paolo II una coerenza che probabilmente in questa società scarseggia, quindi un uomo forte, un punto di riferimento, una luce, un faro verso cui si può guardare anche per riconoscere i propri limiti. Scrivono anche tanti bambini. E ci sono delle lettere spassosissime, ci sono i bambini che chiedono addirittura come abbia fatto a pagarsi tutti quei viaggi in aereo. I bambini sono rimasti colpiti sia dall'attentato, sia poi da questa cosa che la pallottola, come scrive qualcuno di loro, è stata parata dalla Madonna, no? E era, dicono loro, furbo perché nonostante il regime era riuscito comunque a studiare in seminario e quindi a raggiungere quello che era il suo obiettivo. Nel tempo comunque i messaggi sono cambiati, in che modo? Nei messaggi delle settimane, dei mesi successivi alla morte, credo che sia molto più evidente l'influsso dell'eco mediatica, nel senso che comunque c'è quasi un desiderio di testimoniare la propria partecipazione, di raccontare quella sera come è stata appresa questa tragica notizia. Adesso invece è un dialogo molto più libero, diciamo, da questi schemi, è un dialogo che si può intrattenere con qualsiasi amico, e questa è una connotazione forte di questo rapporto con Giovanni Paolo II. Singolare anche il modo con cui lo si fa, tu parli anche ad esempio di uno scontrino fiscale dove è stato lasciato un messaggio. Ho avuto anche un'altra possibilità di sostare per molte ore alla tomba e da lì ho potuto osservare molto da vicino, quindi in faccia proprio, gli aspetti comportamentali dei fedeli, e ho notato appunto che molti arrivano davanti alla tomba, si nota questa grande emozione che coglie la maggioranza sicuramente delle persone, quindi il desiderio proprio di scrivere qualcosa, di lasciare traccia di quel passaggio. Quindi si vede rovistare nelle borse, tirare fuori uno scontrino, un fazzolettino o una ricevuta di un ristorante, quindi quel pezzettino di carta, magari minuscolo, diventa proprio un messaggio significativo di quel passaggio e di questo dialogo con Giovanni Paolo II. La postulazione provvede a conservarli assolutamente tutti, viene fatto un lavoro di smistamento, vengono suddivisi a seconda della lingua, a seconda per quanto riguarda degli oggetti, della tipologia, e archiviati. Tra gli oggetti più singolari che hai visto? Tra i più originali sicuramente ricordo un ingombrante busto ortopedico e due abiti da sposo. L'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche, ha un nuovo presidente, è il moderato Ezzedin El-Sir. Ormai ci sono le moschee, le sale di preghiera a livello nazionale, credo abbiamo bisogno di farle uscire dal diciamo non visibilità, a essere visibili, per essere trasparenti, per essere in maniera più democratica, per essere parte integrante della nostra società, non come un diciamo corpo strano alla nostra società. Ecco, l'ha detto lei stesso, a volte purtroppo invece c'è questa tentazione di considerare un po' un corpo estraneo alla società. Che cosa si deve fare per evitare che ciò avvenga? Da parte nostra, che la moschea deve essere una moschea aperta per la città, per il paese. Dall'altra parte è quello che invito i miei concittadini a conoscere la realtà dell'Islam italiano, a venire a passare la porta, a conoscere chi sta accanto a noi, e così credo noi possiamo arrivare a cercare di eliminare i pregiudizi che ci sono l'uno verso l'altro. Ora c'è Don Willy Volonté, ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Oggi è Pasqua, un augurio a tutti di autentica risurrezione della vita. Ho letto che il grande maestro Riccardo Muti ha percepito il profumo della Quaresima, il tempo che i cristiani dedicano alla preparazione della Pasqua. Ogni volta che arriva la Quaresima, afferma il maestro Muti, la prima cosa che mi viene in mente è il profumo, quello intenso dell'incenso misto a quello delicato dei gigli che sentivo nelle chiese di Molfetta il giovedì santo, quando con la mia famiglia si faceva la tradizionale visita al sepolcro di Cristo nelle chiese. Il maestro Muti dirigerà a New York dell'amato Verdi Attila, opera di attualità sconvolgente, parla di rifugiati, di sete di potere, di amicizia tradita, di oppressi e di tiranni. Mi piace, afferma il maestro Riccardo Muti, pensare e vivere la Quaresima come occasione per riconquistare la semplicità che la società moderna ha messo in un angolo, per ritornare ad una dimensione spirituale che oggi sembra volutamente dimenticata, per gettare la maschera indossata a carnevale, ma che spesso molti portano anche nella vita di tutti i giorni. Il dolore ha segnato più volte la vita del maestro Muti e racconta di aver trovato l'orizzonte entro il quale collocare l'esperienza del dolore, sentendo e risentendo il lento movimento della nona sinfonia di Beethoven, dove il dolore si apre ad un'esperienza che va oltre la possibilità umana e si abbandona a un disegno più ampio, un mistero che trascende. Ma questo aprirsi nella vita a un mistero più grande non è già Pasqua di risurrezione?